Allora, siamo al telefono con Alvin del progetto CALT. Ciao Alvin, intanto grazie mille di essere qui con noi a Radio Città Fucico. Ciao, grazie a voi per averci invitati. Allora, CALT è un progetto nato nell'autunno 2022. In breve, di cosa si tratta? Allora, noi di CALT siamo un collettivo con sede a Reggio Emilia che lavora sul territorio sia nell'ambito artistico che educativo. Io sono un educatore. 2 anni fa appunto ci siamo interrogati su quanto l'arte, e in particolare il rap, potesse essere utile nel nostro lavoro per andare a smontare certi stereotipi e soprattutto dare voce ad una fascia di popolazione che spesso non viene ascoltata. Quindi CALT è nato principalmente per questo motivo, per creare un luogo per i giovani e le giovani artisti di Reggio Emilia dove potessero appunto esprimersi, portare i loro pensieri, portare la loro arte, mettersi in gioco e sentirsi ascoltati anche da quello che è il mondo adulto, che è spesso un mondo molto lontano dai bisogni dei giovani, almeno per quello che abbiamo rilevato noi nel nostro studio territoriale, insomma. Quindi possiamo dire che il vostro target di artisti che coinvolgete è soprattutto una fascia d'età giovani, adolescenti e giovani adulti, possiamo dire. Esatto, esatto. Andiamo dai 16 anni in su. Le persone più grandi che abbiamo intercettato hanno circa 30 anni, però i nostri progetti sono vari. Quindi, per esempio, quando organizziamo dei momenti di riflessione pedagogica sull'arte, nell'educazione, ovviamente in quelle situazioni l'iniziativa è aperta per i nostri colleghi della città, per l'amministrazione e per figure comunque che fanno parte di quello che è la rete educativa della città, mentre gli eventi un po' più ludici, ok? Quindi magari una serata, un concerto, il contest di freestyle, sì, quegli eventi vedono più la presenza di ragazzi giovani e ragazzi e ragazze giovani, sì. Ok, e nello specifico come funziona? Cioè voi organizzate dei contest, contattate degli artisti, scrivete delle canzoni insieme, cosa fa nella pratica, possiamo dire, CALT? Allora, nella pratica noi al momento abbiamo in attivo 4 progetti, adesso te li racconto. Abbiamo il progetto ROTI, che è un acronimo che indica The Rookie of the Year, quindi il giovane più forte dell'anno. E quello è il nostro contest di brani, ossia che noi apriamo le iscrizioni, abbiamo posto per massimo 35 artisti. Gli artisti si iscrivono, hanno un mese di tempo per iscriversi, dopo le serate sono divise in 7 serate. E ogni serata si sfidano 5 artisti che portano 3 brani loro e poi c'è il 4° brano che è un brano scritto con un tema che viene dato da noi giudici 2 settimane prima. Di solito i temi sono temi sociali, quindi alla fine del contest abbiamo raccolto 35 testi di giovani che dicono la loro su temi sociali come la violenza di genere, l'immigrazione, l'istruzione e tutte quelle tematiche che spesso crediamo noi adulti che non interessino ai giovani. Poi abbiamo Underdog, che è il nostro contest di freestyle, quindi è il contest di improvvisazione. Anche qui l'iscrizione è aperta a tutti, ed è una gara dove i ragazzi si sfidano con le rime improvvisate, e alla fine della serata c'è un unico vincitore, ed è bello. La particolarità di Underdog è che è un contest dove chi ha le prime armi può tranquillamente venire e mettersi in gioco, perché non è il contest che ha l'aspirazione di diventare un contest di fama nazionale, ma è come una piccola palestra dove gli artisti, quelli un po' più timidi, quelli un po' alle prime armi, possono venire e mettersi in gioco, conoscere altri artisti come loro, creare comunità e relazioni. Poi abbiamo il Talk to CALT, che sono i momenti che ti dicevo prima, che sono i momenti un po' più di riflessione, di confronto, dove chiamiamo un esperto dell'ambiente musicale, anche educativo, e tramite un'intervista ci facciamo raccontare qualcosa di più su quest'arte, perché il nostro obiettivo non è solo organizzare delle serate dove ci si diverte e dopo si va a casa, però vogliamo creare anche una riflessione su quest'arte. Si analizzano, no, le cose all'interno di questa cultura, no? Quindi il modo in cui i ragazzi entrano in relazione molto più facilmente, anche essendo molto diversi da loro, il modo in cui i ragazzi cercano di capacitarsi a vicenda, il modo in cui non stando insieme le tensioni che magari sentono nella società spariscono perché creano appunto il dialogo. Quindi i momenti del talk to call sono momenti in cui si parla, ci si confronta e chi non sa, chi non conosce bene la cultura hip hop e tutto quello che c'è dentro ha l'occasione di conoscere, così che non veda i ragazzi pensando sono solo dei ragazzi che cantano, perché per noi c'è molto molto di più dietro. Beh, diciamo che un po' la scena rap italiana del momento porta un po' gli adulti, diciamo, a fare dei ragionamenti che sono parlano sempre di violenza, parlano sempre di picchiarsi. In realtà, cioè, bello che ci siano anche questi spazi di riflessione. Avete mai pensato di allargarvi oltre Reggio Emilia? Questa è un po' una domanda che faccio io in quanto educatore. Allora, il nostro obiettivo sarebbe ovviamente provare ad allargarci. Però ti racconto anche questo, noi siamo partiti con il progetto in un modo molto blando, cioè non ci aspettavamo che esplodesse così tanto, quindi è esploso, quindi inevitabilmente abbiamo avuto qualche contatto con Bologna, con Modena, con Parma, insomma con le zone più limitrofe. Quindi sì, il nostro obiettivo sarebbe, ci piacerebbe espanderci pian piano, ma questo perché crediamo che il nostro modello sia un modello particolare e vorremmo che fosse visto anche dagli altri, non per una cosa di vanto, però per dimostrare alle persone che c'è una possibilità di mettersi assieme e creare con l'arte qualcosa che vada davvero dalla gente per la gente. E poi un'occasione anche per noi, di se ci espandiamo, di conoscere altre realtà che magari sono simili a noi e poterci poi contaminare a vicenda. Quindi sì, sicuramente avremo voglia in futuro di espanderci. Intanto ci stiamo espandendo molto a livello locale, perché il quarto punto che non ti ho detto è che da gennaio iniziamo anche a fare dei laboratori di scrittura rap e sono stati contattati da diverse istituzioni di Reggio Emilia e quindi da gennaio partirà anche questo nuovo progetto che ci chiama come protagonisti, insomma. Fantastico. E come progetto cult su Spotify ho trovato io Roti volume 1. Come è nato questo album? Nel senso, il progetto ha contattato dei rapper, sono le canzoni scritte dai ragazzi e buttate lì, ce ne saranno altri, insomma, com'è un po' la questione? Allora, l'EP che avete trovato sulla nostra pagina Spotify è l'EP si chiama volume 1 perché è un EP che è nato dalla prima stagione del nostro contest. Come hai notato, l'EP ha 7-8 brani, se non ricordo bene. 8 brani e sono tutti legati a un tema sociale, perché come ti dicevo prima, noi con i ragazzi diamo la possibilità di fare 3 brani loro, poi il quarto brano è con un tema sociale. I 5 artisti che si sfidano, di questi 5 ce n'è solo uno che vince la serata. E il ragazzo che vince la serata vince anche la possibilità di registrare il brano e di successivamente entrare nell'EP. Quindi l'EP che avete trovato sono la raccolta dei brani dei vincitori ed è il loro testo con l'argomento che abbiamo dato noi. Ce ne saranno altri sicuramente, sì, perché quest'anno non è uscito il volume 2, perché quest'anno più che sul tema ci siamo impegnati più su un lato tecnico del rap, perché ci piace anche mettere alla prova i ragazzi e vedere come vanno. Però sicuramente ci saranno altre canzoni che usciranno a breve, per esempio il brano che abbiamo prodotto per il TEDx. Ecco, a proposito di TEDx, c'è cioè questo evento di domani sera, sabato 7 dicembre, a Reggio Emilia. Voi sarete lì come progetto cult, però con una cosa particolare, perché metterete in versi, correggimi se sbaglio, parole di un gruppo di persone con disabilità. Come funziona? Allora, siamo entrati in contatto con questo progetto che si chiama Progetto Indomiti, che è un progetto che ha al suo interno persone con disabilità, ed è un progetto molto molto curato, sono persone alle quali voglio molto bene, anche se sono da pochissimo tempo nella mia vita, perché sono persone che regalano davvero tanto. Le persone che fanno parte degli Indomiti sono autori e autrici, scrivono poesie. E per la costruzione del brano per il TEDx abbiamo lavorato con loro, ci siamo incontrati, loro hanno scritto moltissime poesie sul coraggio, su cos'è il coraggio per loro. Quindi all'interno di queste poesie ci sono tutti i loro sogni, le loro fragilità, le loro preoccupazioni, però anche la voglia di rivalsa, la voglia di riuscire a avere una voce grazie all'incontro, grazie all'altro. Quindi noi abbiamo preso tutte queste poesie e le abbiamo lette assieme. Noi, quando dico noi, intendo io con il gruppo di artisti che poi ha musicato queste poesie. Ci siamo messi attorno a un tavolo, abbiamo letto le poesie e ci siamo fatti ispirare a volte proprio da alcune frasi o altre volte da alcuni concetti, e da queste poesie abbiamo tirato fuori la canzone. Quindi la canzone che sarà esibita al TEDx è una canzone che è ricca di frasi o di concetti presi dagli Indomiti, e secondo me questo incontro è stato di una potenza importante, perché mostra appunto quello che ti dicevo all'inizio, che Cult sta cercando di fare comunità in un modo, non dico nuovo, perché sicuramente ci saranno state esperienze del genere, però stiamo provando nel nostro piccolo a creare una comunità partendo da quello che abbiamo noi, partendo dall'incontro, partendo dall'abbattere gli stereotipi. E questo è quello che è successo, infatti per me in primis e poi per gli artisti, ma anche per i ragazzi e le ragazze dell'Indomiti è stata un'esperienza magnifica, e non a caso andremo avanti con la collaborazione, perché abbiamo visto che appunto dall'incontro tra le diversità possono nascere delle cose incredibili innanzitutto, e poi molto utili per la società, per dare la visione di una nuova e di una possibile società. Fantastico. Alvin, io devo ammettere che ho la pelle d'oca, e è un progetto stupendo, quindi io spero che in futuro magari avremo modo di, chissà, collaborare con la radio. Io lavoro con i ragazzi pure, quindi magari non diamoci limiti. E grazie davvero, è un'esperienza bellissima, quindi ti ringrazio tanto per la tua disponibilità e per quello che ci hai raccontato, e in bocca al lupo a te, al progetto e a tutti i ragazzi. Grazie, ti ringrazio davvero tanto e spero appunto di poter collaborare pian piano anche con voi e con altre realtà. Grazie davvero, l'apprezzo tanto e ti mando i saluti di tutti i ragazzi del collettivo. Grazie mille, davvero. Grazie, ciao, buon weekend. Ciao, a voi, ciao.